24 mattino. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Ora che la fine è vicina, vi dico chiaramente che ho viaggiato su molte strade e l'ho fatto sempre alla mia maniera. Questa è Frank Sinatra, un grande del secolo scorso, con cui iniziamo questo programma. Buongiorno a tutti da Gianfranco Fabi, il mio penultimo impegno in questa fascia del mattino. Lunedì tornerà Alessandro Milan. Buongiorno a Massimo De Manzoni. Buongiorno, buongiorno. Vice direttore di Libero, e buongiorno a Enrico Cisnetto. Enrico Cisnetto, giornalista, editorialista, politico, organizzatore di convegni. Cosa stai preparando per i prossimi giorni, Enrico? Io ogni lunedì ho un appuntamento a Roma Incontra e il titolo del prossimo lunedì sarà Ci vuole coraggio, perché siamo senza coraggio, siamo senza il coraggio di guardare in faccia la realtà di ciò che è la situazione del nostro paese e di fronte al fatto che manca il coraggio e il tempo si sta esaurendo, bisogna che ci sia un sussulto delle coscienze di ciascuno di noi, perché veramente il paese rischia, il paese significa tutti noi, rischia di certo, in maniera pesante. Infatti guardare i giornali è un po' disarmante perché l'Europa avverte l'Italia, un rischio contagio, rischio di incertezza, ma è disarmante soprattutto sul fronte politico, in cui la nebbia sembra coprire un po' tutte le cose, soprattutto in chi avrebbe responsabilità di governo. Faida a sinistra per il Quirinale, titola Libero Massimo De Manzoni, la faida a sinistra non solo per il Quirinale ma anche nel governo, c'è un po' di confusione sotto il cielo della sinistra. Un po' di ottimismo, la sensazione di essere prigionieri di un gigantesco e permanente congresso del Partito Democratico, in cui si stanno facendo giochi di potere alle nostre spalle, perché altrimenti non si riesce a capire. Oggi, stamattina, vedevo, adesso stavo sfogliando i primi giornali, l'intervista della Rosy Bindi contro Bersani, diciamo così, da sinistra. L'altro giorno avevamo avuto un'intervista di Franceschini contro Bersani da destra. Renzi sappiamo che posizioni ha, Bersani continua ad andare avanti, i dati economici sono spaventosi e lì potremmo anche aprire un capitolo su che cosa è servito a Monti, visto che quello che sta dicendo l'Europa assomiglia molto a quello che diceva un anno e mezzo fa, prima di costringerci a ingoiare questo governo tecnico che alla fine ha fatto più disastri che bene all'Italia. E siamo qua veramente senza una prospettiva, questo che fa paura, perché da 45 giorni stiamo dicendo le stesse cose. Però bisogna anche avere un po' di senso storico. In fondo, certamente il giudizio su Monti può essere un giudizio soggettivo, può essere forse non condivisibile. Io penso che Cisnetto sia forse di un po' di diverso parere, e anch'io sono un po' di diverso parere, pensando a come Monti è entrato in campo, non certo per sua volontà, ma perché la situazione lasciata dal governo allora di centrodestra era una situazione molto complessa. Cisnetto. Ma se misuriamo quello che era la situazione del novembre del 2011, quello che stavamo rischiando allora per via dello spread e di ciò che i mercati stavano determinando, è evidente che l'avvento di Monti è stato salutare. È anche evidente però che Monti ha avuto due fasi distinte molto nettamente separabili. La prima, quella della riforma delle pensioni, seppur con qualche difetto non indifferente, ma insomma comunque un atto di coraggio di intervenire su un tema difficile come quello delle pensioni, e poi invece una seconda parte dove ha balbettato, ma soprattutto secondo me ha commesso l'errore che oggi si vede plasticamente, perché il messaggio di ieri dell'Europa è: da un lato state per uscire dall'inflazione dall'altro ci dice siete a rischio, siete un paese a rischio perché contemporaneamente avete un alto debito che nel frattempo è ulteriormente aumentato, sia in termini assoluti sia in termini di rapporto con il PIL, essendo il PIL sceso, e poi non siete stati capaci di fronteggiare la recessione, anzi l'avete alimentata. E qui c'è, secondo me, l'errore più grave che ha commesso il governo Monti, che è quello a suo tempo di aver scelto la strada dell'intervento sul deficit corrente anziché sul debito. Se avesse scelto invece di fare una politica di dismissione del patrimonio pubblico e con quelle dismissioni avesse ridotto in valore assoluto e anche in termini percentuali il debito, e probabilmente forse all'interno di un'operazione ben congegnata ci sarebbe stato lo spazio anche per ricavare delle risorse per fare investimenti, che sono gli unici che ci possono dare un po' di ripresa, perché la ripresa senza soldi è difficile farla, e forse se avesse fatto questa scelta saremmo stati in una situazione completamente diversa. Quindi diciamo, il giudizio su Monti non può non tener conto di che cosa è stato il governo Monti in quel momento a novembre e i primi mesi del 2012, ma poi deve anche essere un giudizio, diciamo, severo per quanto riguarda questa scelta che vi ho appena detto. Certamente, e la Libero, appunto, per tornare a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, ha una, in prima pagina, una caricatura di Monti con un naso lungo quanto la pagina, l'eredità di Monti, IMU per sempre, il debito pubblico sfonda ogni record. Però ecco, c'è anche il fatto che ieri c'è stato questo avvertimento dell'Europa, però la borsa a Milano è salita del 3%, lo spread è sceso attorno a 300 punti, i mercati finanziari in fondo non guardano con grande preoccupazione il fatto che l'Italia non ci sia un governo, in fondo pensano che è meglio nessun governo che un governo che sbaglia. Forse può essere questa, Massimo De Manzoni, l'interpretazione di questa dicotomia che purtroppo c'è spesso tra i mercati finanziari e l'economia reale. La situazione dell'economia reale italiana è certamente molto difficile. Sarebbe bello pensarlo, ma non è così, e questo dimostra anche quanto in realtà il fattore spread sia stato a suo tempo sopravvalutato. Lo spread e le borse stanno andando bene in questo momento per due ragioni che non dipendono assolutamente da noi, purtroppo. Una ragione è che c'è un mucchio di liquidità in giro, immessa soprattutto dalla banca centrale giapponese, e la liquidità, si sa, va a cercarsi affari in Italia, e i buoni del tesoro italiani, che infatti ieri sono andati benissimo, sono un affare per gli investitori perché hanno degli ottimi rendimenti. E l'altro fattore che ci protegge è in questo momento l'azione della BCE e la minaccia di intervento della BCE, e il fatto che stanno per votare in Germania, e fino a settembre la signora Merkel non è che abbia proprio voglia di vedersi esplodere la zona euro sotto i piedi, per cui magari anche senza eccessive dichiarazioni di intenti, le cose, i messaggi ai mercati arrivano forti e chiari. Ma questo non è che ci debba far stare tranquilli. Noi abbiamo bisogno, come il pane, di un governo, anche perché stiamo parlando di spread, stiamo parlando di finanza, ma poi c'è l'economia reale, e lì bisogna rifarsi alle parole del presidente di Confindustria Squinzi e ai numeri, e i numeri dicono cose assolutamente terribili, dicono che muoiono imprese, certo, a decine tutti i giorni, dicono che le famiglie stanno peggio di prima, dicono che i consumi sono crollati in un modo impressionante, tutti i parametri sono tornati indietro di 20, 30, 40 anni. Nel caso del debito pubblico, guardiamo addirittura al fascismo. E ancora dire che il bilancio del governo positivo di Monti è positivo di fronte a questi numeri diventa sempre difficile. Sì, l'Italia è in buona compagnia, in buona e cattiva compagnia, perché anche altri paesi europei hanno grandi problemi, ma paesi come la Spagna sembra che in qualche modo, anche perché hanno avuto l'umiltà di chiedere all'Europa dei soldi in prestito, il fondo salva stati, stanno cercando di recuperare, sembrano usciti appunto dalla zona di rischio. Non per caso ieri questo rapporto dell'Unione Europea mette il dito indice sull'Italia come paese in difficoltà. Enrico Cisnetto, il fatto che i mercati finanziari abbiano questa situazione positiva in fondo è un problema in meno, però tutti gli altri problemi restano. Ma è un problema in meno, ma anche fino a un certo punto, perché ricordiamoci che comunque lo spread si mantiene sopra i 300 punti, che non è proprio, adesso noi ci abbiamo fatto il callo, ma rimane comunque una quotazione molto alta che comporta anche pesanti oneri dal punto di vista degli interessi sul debito, quindi non è propriamente una situazione tranquilla neanche da questo punto di vista. Le borse poi seguono un andamento tutto loro e ricordiamoci che comunque Milano è stata per molti mesi la borsa peggiore, quindi evidentemente bisogna anche tenere conto che c'è un margine di recupero. Quello che io trovo che da noi faccia la differenza, per esempio con la Spagna, è la situazione, più che la situazione politica direi più strutturalmente la crisi del sistema politico, perché in Francia, in Spagna sono fatte le elezioni, si è scelto un governo, lo si può giudicare come lo si vuole, così come si può giudicare con voti abbastanza bassi il governo francese di Hollande, la gestione di Hollande in Francia, ma tutto sommato comunque c'è un sistema politico che tiene. Invece da noi è arrivata al capolinea la Seconda Repubblica e i protagonisti, anziché rendersi conto, oltretutto c'è proprio una certificazione di questa crisi, basta prendere i voti del Movimento 5 Stelle e considerarli appunto la certificazione del fallimento di quel sistema, e nonostante questo si è andati alle elezioni nella logica del vecchio bipolarismo, dello scontro tra berlusconismo e antiberlusconismo, e siamo ancora prigionieri lì, perché nonostante si dovesse prendere atto fin dal primo momento che un Parlamento diviso in tre blocchi era un Parlamento che bisognava che mettesse insieme due di quei tre blocchi, si è inseguito l'unica possibilità da parte di Bersani, quella di allearsi con l'unico blocco indisponibile per sua stessa definizione, per la modalità per la quale esiste, cioè il Movimento 5 Stelle, e si continua a ritenere impraticabile una qualche alleanza, seppure a tempo determinato, seppure su alcuni obiettivi ben definiti con il PDL. Di fronte a una situazione di questo genere è evidente, e allo stallo che produce, è evidente che come dire, certo, sul piano internazionale il Paese rimanga un paese molto molto più inaffidabile di chiunque altro. E in dubbio, gli appelli di questi giorni, da parte appunto del presidente di Confindustria, oggi riportano tutti i giornali, sono perché si faccia in fretta, si smetta con questo gioco delle parti e con queste scaramucce, e si arrivi a dare un governo finalmente al paese. 24 mattino. Bersani, lo so ben io che preferisce tenerti in mano il passerotto. Ma scusa, non ti accorgi che non volerà mai? Ma guardati un po' oltre l'ombelico e vedrai il tacchino che ti stanno cucinando sul tetto del Quirinale. Fanno bene i grillini a occupare le istituzioni leggendo Costituzione e Regolamento. Così hanno il modo, dato che non l'hanno fatto prima e non lo conoscono, hanno il modo di impararli. Salve. Io vorrei capire una cosa: come si fa a dire Bersani deve andare a casa? Come si fa a dire Bersani e Berlusconi hanno governato negli ultimi 20 anni? Berlusconi di sicuro sì, ma qualcuno mi dice quando avrebbe governato Bersani? Forza Pierluigi, tieni duro, alla via così. Senti, sono Carlo da Taranto, ripeto sempre quello che ho detto fin da diversi giorni fa. Bersani è un protervo, vuole fare il testardo, vuole tenere tutto in mano lui. Avrebbe dovuto fare un passo indietro e offrire lui a Grillo Palazzo Chigi, offrendo appoggio esterno o comunque il sostegno del Partito Democratico a un presidente del Consiglio dei Grillini, perché i grillini possono essere coinvolti nel governo solo se hanno in mano Palazzo Chigi. Glielo doveva dare. È geloso. Bersani ci sta portando alla rovina. Ciao. Erano le voci della nostra segreteria telefonica, vi ricordo 02 46 52 4492, ecco, voci che testimoniano anche di un paese un po' smarrito di fronte a questa situazione politica, e anche la richiesta di tornare alle urne che molti fanno può essere una richiesta che forse può essere un alibi, perché anche tornare alle urne non risolverebbe il problema se i partiti continuano ad essere con la stessa logica di questi ultimi giorni. Enrico Cisnetto. Ma non c'è dubbio che il paese sia smarrito e che la formazione di un sistema politico nuovo, o comunque le modalità con cui è immaginare di fare un governo e di eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, siano diventati come la formazione della nazionale di calcio, se ne parla nei bar, e la modalità è quella che ognuno, come dire, sfoga le sue fantasie. La politica è una cosa seria che richiede capacità di analisi, capacità di decisione soprattutto. Ho scritto in questi giorni che, non essendo mai stato un liberista, non keynesiano, non mi è mai piaciuto quello che faceva la Thatcher, ma ho una grande nostalgia per una statista come la Thatcher, che sapeva prendere delle decisioni impopolari. Poi si potevano giudicare nel merito, naturalmente, ma eravamo di fronte a un ceto politico che era in grado di assumere decisioni importanti, e lo faceva con la coscienza della responsabilità che un ceto politico deve avere di guida nei confronti del paese. Invece il paese è rimasto per tanti anni in questo bipolarismo maledetto di cui siamo stati vittime, è rimasto senza guida, e oggi appunto affronta il mare in tempesta, ognuno immaginando che esistano barche che purtroppo non ci sono, insomma, come quella, per esempio, faccio riferimento a uno dei messaggi che ho sentito, che di mandare qualcuno del Movimento 5 Stelle, un Presidente del Consiglio pentastellare, mi fa venire i brividi, insomma, però... Sì, sì, si fanno anche queste ipotesi, indubbiamente. Ecco, un'ipotesi che si fa, direttore di Libero, il tuo direttore Massimo De Manzoni, oggi scrive, ma c'è anche l'ipotesi che alla fine si scelga Bersani al Quirinale come Presidente della Repubblica, in fondo per convincerlo a lasciar perdere a fare il governo. È questa l'interpretazione, Massimo De Manzoni? Cioè, un po' questo, un po' il fatto che è proprio lui che negli incontri con la delegazione del PDL, cioè con Berlusconi, poi c'erano Berlusconi e Alfano, abbiamo appurato ieri che appunto non avrebbe fatto dei nomi, ma avrebbe fatto delle frasi, delle allusioni a se stesso trasversali, facendo capire che forse avrebbe individuato come strada d'uscita dalla via, dal cul-de-sac in cui si è infilato, questa soluzione che effettivamente avrebbe quantomeno un pregio: rimuovere Bersani dalla segreteria del Partito Democratico, cosa senza la quale in questo momento mi sembra che i giochi siano chiusi e che l'unico sbocco che rimane sia tornare a votare, con tutti i rischi che si dicevano prima, perché tornare a votare con questo sistema elettorale non ci garantisce assolutamente di avere un risultato diverso da quello che abbiamo avuto adesso, anche se è bene ricordare che hanno fatto delle simulazioni anche su un'ipotesi di voto, in base ai sondaggi che girano attualmente, di voto con il sistema precedente, con Mattarellum, ed avrebbe un risultato più o meno analogo, per cui poi alla fine non è neanche solo il sistema elettorale, che peraltro non va bene, che peraltro ha tutti i difetti che abbiamo detto, determinati da un sacco di situazioni che è inutile stare qui a esaminare. Anche perché dobbiamo chiudere, il tempo stringe, mi scuso con Massimo De Manzoni, lo ringrazio. Dico solo che il voto non ci garantisce nulla, e Bersani è un ostacolo. Se si facesse da parte, ma certo Bersani al Quirinale non mi sembra quella figura garanzia al di sopra delle parti, soprattutto appunto al di sopra delle parti, soprattutto perché adesso rappresenta molto, molto una parte di questo sistema elettorale. Grazie a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, grazie a Enrico Cisnetto, editorialista, consulente politico, di essere stati con noi in questa prima parte della mattinata alla linea GR. Mattino, l'Italia si desta. Buongiorno, bentornati a Radio 24 da Gianfranco Fabi per questa panoramica che adesso faremo sui giornali. Poi dopo alle 8:15 parleremo del Papa, del nuovo Papa, di Papa Francesco, della religione. Lo faremo con Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, e con Padre Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica. Parleremo della religione nel mondo di oggi, delle problematiche legate alla fede. Don Sciortino ha appena scritto un libro, un'intervista con Giovanni Valentini sulla morale, la fede e la ragione, questo alle 8:20, dalle 8:20 alle 9. Ma adesso guardiamo un po' i giornali di oggi, giornali che, come abbiamo anticipato, sono dedicati in gran parte ai due temi forti della giornata di ieri: la situazione economica, con questo richiamo dell'Unione Europea all'Italia, l'Europa avverte l'Italia, il titolo del Corriere della Sera, e Bindi avverte Bersani, è il titolo della Stampa. Due avvertimenti: l'Europa avverte l'Italia perché c'è la situazione economica italiana particolarmente complessa, rischia di provocare un contagio e quindi di provocare la rottura del patto dell'euro e gravi problemi in tutta l'Europa, e quindi l'Europa avverte l'Italia sul fatto che deve fare presto. E l'editoriale del Corriere della Sera di Federico Fubini è l'illusione di avere tempo, il tempo passa e la politica invece sembra ragionare su se stessa. Ancora il Corriere della Sera da conto appunto della lite Bersani-Renzi. Franceschini dice: vedo rischi di scissione per questa lite Bersani-Renzi. E anche nuove polemiche su D'Alema, dopo che il Corriere della Sera ieri aveva riportato appunto delle indagini in corso che coinvolgerebbero D'Alema per la vicenda della gestione della Milano-Serravalle, il caso Penati. D'Alema che replica: falsità su di me, PDL e PD lo difendono, veleni nella corsa al collo. E appunto tra 8 giorni ci sarà la prima votazione per il Presidente della Repubblica, e questo sta condizionando tutta la politica italiana. Sul Corriere della Sera c'è anche un interessante articolo di Dario Di Vico: la nuova alleanza tra operai e aziende, se avremo tempo lo vedremo più tardi. Anche il caso Napoli, i tormenti di Napoli, e va in piazza la borghesia. Ieri c'è stata una grande manifestazione a Napoli ed è questo il titolo principale, per esempio, del Manifesto Napoli Centrale, con un articolo sulla bocca del vulcano, una protesta dei commercianti per l'imposizione di zone a traffico limitato in città. Guerriglia contro la ZTL è il titolo della Stampa, che ha anche un solito, come al solito, ironico commento di Massimo Gramellini, che nella sua rubrica Buongiorno ne leggiamo la conclusione: indignarsi non è sbagliato, è inutile, per motivi che è altrettanto inutile ricordare. A Napoli le regole creano ansia, forse sarebbe meglio eliminarle del tutto, consentire alla città di esprimersi secondo il suo estro. Si aboliscono dunque le ZTL, i semafori, i passaggi livello e le corsie preferenziali, così chiamate, mi spiegò un tassista, perché di preferenza ci passano loro, i sensi unici e quelli vietati, il sindaco, il prefetto, la polizia e i vigili urbani. Un caos senza freni troverà da solo quel supremo equilibrio che nessun tentativo di mettere un freno al caos potrà mai ottenere. Questa è la Liberi Tutti, il Buongiorno di Massimo Gramellini sulla Stampa. La Stampa che ha appunto, come vi dicevo, un titolo grande che dice: Bindi avverte Bersani, un'intervista al presidente del Partito Democratico Rosi Bindi, che comunque dice: beh, parlo a titolo personale, questo è già significativo. Caro Bersani, così non va, un governo di minoranza ci consegna a Berlusconi, l'affondo del presidente PD, stiamo snaturando il partito. E questi sono i punti principali: non mi ha convinto lo scarto improvviso verso il centrodestra, è una soluzione politicista e precaria. Berlusconi, gli stiamo dando le chiavi del nostro governo del cambiamento, deciderà lui quando staccare la spina. Sul futuro del PD, pronta a dialogare con Barca se il suo obiettivo non è la ricostruzione di un partito da sinistra. E la soluzione, ascoltiamo Napolitano, la via è quella di un governo di scopo senza ministri indicati da noi e dal PD. Rosi Bindi infatti dice, rispondendo alla domanda di Federico Geremica: e allora che si fa, si torna alle elezioni? Noi non vogliamo le elezioni, risponde Rosi Bindi, ma nemmeno dobbiamo temerle, e comunque è necessaria una nuova legge elettorale. E se Bersani non ce la facesse per evitare il voto anticipato ad aprire una fase di riforme essenziali mi sembra più trasparente e sostenibile una soluzione marcatamente istituzionale, affidata al Presidente della Repubblica per un governo di scopo, limitato nel tempo, guidato da una personalità congeniale a tale profilo, istituzionale e non politico. Ecco, se avessimo letta poco più di un anno fa, il profilo sarebbe quello di Monti, ma Monti ovviamente ha fatto la sua esperienza e non è certamente riproponibile, anche perché è un'esperienza sicuramente contraddittoria. L'allarme di Squinzi: senza un governo non ci sarà ripresa, è nella prima pagina della Stampa, e come sulla prima pagina del Sole 24 Ore: senza governo ripresa a rischio, produzione in calo a febbraio e anche a marzo continuerà la frenata, meno 0,2%, dice il Sole 24 Ore. I segnali che il paese attende, l'editoriale di Alberto Rioli su Sole 24 Ore, e quelle sette riforme che ci chiede l'Europa, è il commento di Adriana Cerretelli. Sette riforme strutturali, le leggiamo rapidamente: liberalizzazione dei mercati dei prodotti e dei servizi, sistema fiscale favorevole allo sviluppo, ulteriore decentralizzazione della contrattazione collettiva, istruzione, efficienza della pubblica amministrazione e normative pro business. Ecco che sono certamente un elenco interessante, ma altrettanto difficile da attuare, ma qualcosa sicuramente bisogna fare per questo paese che ha le risorse per affrontare la crisi, ha la potenzialità per affrontarla, ma si trova fermo in quello che possiamo chiamare un pantano politico. Anche la Repubblica mette in primo piano UE che ammonisce: Italia rischio contagio, ma la borsa vola e lo spread scende sotto quota 300. Repubblica ha anche uno studio fatto da due costituzionalisti sulla possibilità che si voti con il vecchio sistema elettorale, e questo studio non è dato tanto sui sondaggi quanto estrapolando i dati delle ultime elezioni del 24 febbraio. Ti dicono: se si fosse votato con il Mattarellum, cioè con il sistema elettorale che c'era prima dell'attuale, quello che è stato ribattezzato Porcellum, ecco, non sarebbe cambiata tanto la situazione politica, anche se il PDL sarebbe diventato il primo partito, ma la maggioranza sarebbe stata comunque impossibile, perché anche appunto, se si fosse votato con i seggi uninominali avrebbe vinto Berlusconi e non Bersani, anche se con qualche voto in meno, però in un maggior numero di collegi uninominali, in 216 collegi, e quindi il partito, il Popolo della Libertà, avrebbe ottenuto una maggioranza di seggi, ma non una maggioranza assoluta in grado di governare. Quindi anche con una legge elettorale precedente, se si fosse votato con la legge elettorale precedente, dice questo saggio appunto di Antonio Agosta, docente di scienza della politica all'Università di Roma, e di Nicola D'Amerio, docente di tecniche di analisi elettorale a Roma 3, ecco, questa analisi dice che appunto con il vecchio sistema elettorale avremmo avuto 235 seggi per Bersani, 15 per Monti, 108 per Grillo, 259 per Berlusconi, quindi una maggioranza relativa per il centrodestra, ma comunque per avere una maggioranza, un 51% dei voti tali da nel governo, anche con la vecchia legge elettorale si dovrebbe fare un accordo tra qualcuno e qualcun altro, quindi tra la destra e la sinistra, o tra la sinistra e Grillo, oppure tra Grillo e la destra, perché no? Questa è appunto la situazione tripartitica che si presenterebbe anche con la vecchia legge elettorale. 24 mattino. Eccoci ancora a voi, eccoci ancora con la lettura dei giornali di oggi. Eravamo su La Repubblica ha anche un'inchiesta di Federico Rampini da New York, il disco rotto del rigore. Federico Rampini ha sentito alcuni esponenti importanti della realtà economica e del pensiero economico, e conclude appunto guardando a quanto si fa negli Stati Uniti e in Giappone, dicendo: l'Europa è sorda all'elezione americana, eppure la strategia di Obama assomiglia a quel che fece il cancelliere socialdemocratico tedesco Gerhard Schröder. Razionalizzò il welfare in modo equilibrato, a tempo debito, lasciando ad Angela Merkel una competitività accresciuta. Oggi il vento che soffia in Europa è ben diverso, scrive Federico Rampini. Lo ha constatato Jacob Liu, neo segretario al Tesoro, al termine della tournée a Bruxelles, Berlino, Francoforte e Parigi, dove si è sentito ripetere il leitmotiv del disco rotto dell'austerità, dell'austerity. Tagliando il deficit si ricrea fiducia e con la fiducia ripartirà la crescita, gli ha detto il ministro dell'economia tedesco Wolfgang Schäuble. È come una mantra, formula magica o preghiera agli dèi. La si continua a recitare mentre il vecchio continente sprofonda in una recessione che ormai avvolge anche il suo nucleo duro franco-tedesco. E questo conclude la prima puntata di questa inchiesta di Federico Rampini sul rigore, il disco rotto del rigore. Anche il Secolo XIX ha un editoriale di Giuseppe Berta sul tema più o meno simile, sempre meno BTP all'estero, ma a Bruxelles non l'hanno capita. Il commento sulla diagnosi sbagliata degli eurocrati e di Giuseppe Berta, che si conclude questa analisi. Chissà se i signori di Bruxelles si sono mai accorti che la quota del debito pubblico italiano in mano a soggetti non residenti del nostro paese è crollata già l'anno scorso dal 45 al 31% del totale. Il debito è aumentato, ma rimane sempre più dentro i nostri confini. Ciò ci rende un po' meno diversi da quel Giappone che non si fa certo un problema dall'enorme massa in espansione incessante dei suoi titoli di Stato. Il vero problema dell'Italia è che non dispone oggi di una voce autorevole capace di farsi valere in campo internazionale per ricordare ai nostri partner che non dipendono da noi i destini di quella costruzione ormai fatiscente che è diventata l'Unione Europea. Quanto all'esangue e assai poco responsabile tecnocrazia che pretende di ammonirci dall'alto come farebbe un astro di tennis, conclude Giuseppe Berta sul Secolo XIX, forse è il tempo di farne a meno. È ora che la Commissione Europea venga scelta e legittimata attraverso il voto popolare, altrimenti meglio lasciar perdere. Ecco, un'ipotesi certamente provocatoria questa di Giuseppe Berta, però al fondo c'è il fatto che la moneta unica europea ha tanti problemi perché non ha alle spalle una realtà politica, capace di decidere a una voce sola, capace appunto di affrontare i problemi, di essere espressione popolare. Il vero problema è il fatto che l'Europa è una poca Europa, è un'Europa che non è una nazione, non il fatto che bisogna appunto disperdere quel poco che si è fatto. Sul Corriere della Sera c'è un'interessante inchiesta di Gian Antonio Stella che mette in luce un particolare sconcertante. Tutti i musei pubblici d'Italia guadagnano meno del Louvre. In Campania pago il biglietto un visitatore su due, in Friuli uno su 10. 26 euro di incassi l'anno per ogni dipendente è da apocalisse il bilancio dei musei e dei siti archeologici calabresi. Sparare solo sulla Calabria però sarebbe ingiusto. Sono i conti del nostro intero patrimonio culturale a essere tragici. Tutte le biglietterie statali italiane messe insieme hanno fatto introiti del 2012 per un centinaio di milioni, il 25% in meno del Louvre da solo. Quindi ecco, l'Italia che ha il più grande patrimonio, culturale, possiamo dire, del mondo, si trova in questa situazione di non riuscire a sfruttarlo, a pieno, proprio per l'inefficienza, per l'incapacità di fare una vera politica culturale, una vera politica di promozione della cultura italiana, soprattutto per i turisti. Sul fronte del governo, di un governo che non c'è, e sul tempo che passa inesorabilmente con le scelte da compiere che non si riescono a compiere, un dossier della Stampa parla appunto di un paese a rischio paralisi e elenca molto rapidamente i nodi ancora aperti e le decisioni da prendere che non vengono prese appunto perché il governo è in ordinaria amministrazione. I nodi, l'esecutivo va avanti con l'ordinaria amministrazione ma troppe questioni cruciali attendono una risposta. Oltre 30 incarichi da assegnare entro l'anno, l'Italia rischia di essere tagliata fuori dalle politiche europee. Missioni all'estero finanziate solo fino a settembre, con il fronte del no in crescita. La cassa integrazione, le risorse stanziate sembrano esaurite, con decine di migliaia di lavoratori in bilico. La Farnesina, il Ministero degli Esteri, dopo le dimissioni di Terzi, l'interim di Monti, non basta a ripristinare una catena di comando. Il Viminale, il Ministero degli Interni, la politica è senza vertice dopo la morte di Manganelli. Quindi ecco, una situazione in cui la mancanza del governo si sente sempre di più per decisioni operative che dovrebbero essere prese per nomine e soprattutto per la presenza dell'Italia sul fronte internazionale, perché con l'Europa l'Italia ha molti conti in sospeso, come dimostra appunto il richiamo dell'Europa di ieri, che meriterebbe una risposta adeguata da parte di una politica adeguata. Intanto qualcosa si fa, qualcosa va avanti, stanno lavorando i saggi nominati con qualche polemica, lo ricorderete, da Napolitano. Sono pronte le proposte dei saggi, ancora la Stampa che lo dice. Ugo Magri scrive: sul piano economico non ci si attende una sconfessione dell'operato di Monti, i critici del rigore tanto nel PD quanto nel PDL resteranno delusi, la presenza del comitato del ministro Moavero del resto esclude colpi di scena, però i saggi riconoscono che è tempo di voltare pagina. L'intransigenza nei conti pubblici, patrocinata in primis dal ministro Grilli, va resa più funzionale alla crescita. C'è dunque un'accelerazione visibile, specie per quanto riguarda i rapporti con Bruxelles, e si indicano le modalità necessarie per soccorrere gli esodati, scelta essa sì politicamente di svolta rispetto al governo dei tecnici. Nel campo istituzionale il parto più rilevante si chiama convenzione, è il cantiere che il comitato consiglia di mettere in piedi per aggiornare la carta repubblicana senza demolirla a casaccio. Guarda caso, di convenzione va parlando da settimane Bersani, suggerendo che a guidarla sia un esponente dell'opposizione, con una differenza: il segretario PD è rimasto finora sul generico, laddove i saggi vanno al sodo, per esempio con qualche riserva di Onida, il quale nell'insieme condivide l'impianto. Propongono che i maggiori partiti avanzino un ordine del giorno, una volta approvato dal Parlamento la convenzione potrebbe mettersi al lavoro. Questo è il resoconto che dà la Stampa sul lavoro dei saggi, all'interno della saggi nominati del Quirinale all'interno di una crisi politica sempre complessa. L'editoriale di Avvenire è invece dedicato al tema della famiglia. La prossima settimana avrà luogo a Roma una giornata di studio sulla famiglia, la prima impresa. Il titolo dell'editoriale di Francesco D'Agostino su Avvenire è La concretezza del valore. D'Agostino ricorda la necessità di politiche per la famiglia, ma soprattutto sottolinea che l'interesse cattolico per la dimensione economica della famiglia possiede un altro profilo che non va sottovalutato, oltre a quello delle politiche familiari. Se la famiglia è un bene umano, essa non può che essere caratterizzata da quei profili che accompagnano ogni bene umano: autentico, la sincerità, l'impegno, il senso della durata, l'assunzione di responsabilità, la disponibilità al sacrificio, la subordinazione degli interessi individuali e gli interessi collettivi. È una costellazione di principi, scrive Francesco D'Agostino, è una costellazione di principi questa che sembra ormai lontana dalla percezione sociale oggi più diffusa in termini di famiglia, quella che la considera alla stregua di una tra le tante diverse modalità della vita sociale degli individui, la più tradizionale e nemmeno per molti la più rilevante. L'errore che sta alla base di questa lettura della famiglia, quello che accomuna tutte le letture ideologiche della realtà, che si rifiutano testardamente di reggere le cose così come esse oggettivamente sono, così come esse oggettivamente si manifestano, e chi le voglia studiare senza pregiudizi. E le cose stanno in questo modo: senza la famiglia e la sua capacità di aggregazione, di solidarietà intergenerazionale, di apertura al futuro, non c'è società che possa darsi una stabile struttura, meno che mai quella italiana, che solo grazie al suo radicamento familiare riesce a sottrarsi a un vero e proprio collasso. Anche questo, appunto, l'importanza della famiglia in una situazione come quella italiana, molto difficile dal punto di vista economico, forse non è adeguatamente sottolineata. Ce la ricorda questo editoriale di Francesco D'Agostino su Avvenire di oggi. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. 24 mattino. Eccoci qua per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Saluto Alfredo Sessa. Buongiorno Alfredo. Buongiorno a tutti. Alfredo Sessa è caporedattore del Sole 24 Ore. Abbiamo già visto l'apertura del Sole 24 Ore, Squinzi senza governo, ripresa a rischio. Quali altre cose interessanti ci segnali dal Sole 24 Ore? sempre nell'ottica delle sofferenze delle imprese che scontano i ritardi, le situazioni della politica in questa fase di grave crisi economica, vi segnalo soprattutto il via libera ai primi 10 miliardi di rimborso dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese grazie al decreto che il Ministro dell'Economia ha varato in questi giorni. Un altro tema molto, molto in rilievo sul Sole di oggi riguarda i mercati che vedono la borsa salire del 3%, questo è stato il risultato di ieri del FTSE MIB, e allo stesso tempo sullo sfondo c'è questo allarme dell'Unione Europea che dice un possibile contagio dall'Italia se non risolverà i suoi problemi di debito pubblico e le sue carenze strutturali. Come spiegare questa contraddizione? Sullo sfondo c'è soprattutto questo intervento degli investitori giapponesi a caccia di rendimenti superiori rispetto a quelli che possono ottenere sul mercato nazionale, e gli acquisti degli investitori giapponesi stanno, diciamo così, un po' drogando il mercato. Ecco, poi c'è il Casa 24 che ha un focus sulle aste immobiliari. Sì, senz'altro c'è il mercato immobiliare, le aste sono andate abbastanza bene e poi ci sono anche segnali di ottimismo che ci vengono dal salone del mobile, dove gli operatori parlano di vivacità, di un mercato che guarda ai paesi emergenti per la ripresa e che quindi lancia un segnale di ottimismo. Grazie mille, grazie Alfredo Sessa. Allora oggi il Sole 24 Ore anche con questo supplemento settimanale sul Casa 24 Plus, focus sulle aste immobiliari con le analisi dei mercati, e ancora oggi con questa analisi su come va come vanno le aziende, purtroppo con un termometro dei fallimenti. Grazie ad Alfredo Sessa, andiamo avanti con il nostro sguardo sui giornali di oggi. Diamo un'occhiata anche ai settimanali, c'è in edicola Panorama ha copertina il tassametro della famiglia italiana, addio a 4 euro su 10, sottolineando appunto come le tasse colpiscano le famiglie, non solo per quanto si paga come imposte dirette sul reddito, ma anche questo con quelle tasse un po' occulte che paghiamo quando facciamo degli acquisti, quando compriamo la benzina, non solo con l'IVA ma anche con gli altri balzelli. Marito e moglie con due figli, un reddito da 44.000 euro, pagano 12.000 euro di IRPEF, ma altri 6.000 servono per far fronte ai vari balzelli occulti, dalle imposte sull'energia a quelle su due cellulari, sulle accise sulla benzina e così via, perché tutti quello, ogni cosa che facciamo ricade sotto l'attenzione, chiamiamola così, del fisco, e è questo che porta la pressione fiscale in Italia ai livelli più alti, ed è una pressione fiscale che è una delle ragioni per cui la domanda in Italia è così bassa e per cui appunto l'economia poi ne risente in maniera così forte come avviene in questo periodo, e per cui appunto si chiede un minor rigore, restituire un po' di soldi ai cittadini perché possano spenderli. E per fare questo ci vuole rapidità di decisioni, l'illusione di avere tempo, ho accennato all'editoriale di Federico Fubini sul Corriere della Sera. Nel 92, operata dai debiti, l'Italia fu costretta a uscire dall'accordo di cambio europeo a svalutare la lira del 30%, ricorda Federico Fubini. Gli investitori esteri che avevano comprato i BTP sulla base dell'impegno del paese a restare nel sistema monetario si ritrovarono con una perdita effettiva di un terzo del capitale. È possibile ritornare a fare come allora? Conclude Federico Fubini. L'idea che ci sia ancora tempo e qualcosa o qualcuno alla fine ci salverà forse aveva un senso nel 92, quando Maastricht era il futuro. 20 anni dopo, la sola Maastricht che può salvarci è qui, in Italia, nella sua capacità di cambiare le proprie istituzioni economiche per prosperare. Bersani e Berlusconi ne staranno parlando urgentemente o no? Si chiede Federico Fubini sulla prima pagina del Corriere della della Sera. C'è uno scudo della Merkel, dice Giuseppe Turani sulla prima pagina del Giorno. L'Italia e gli altri paesi hanno bisogno di qualche soldo per non andare all'otto, e lo si troverà. Questa è la fiduciosa analisi di Giuseppe Turani sulla prima pagina del Giorno. E fiducioso è anche l'Unità da parte sua, che dice Bersani: il governo si farà. Il leader PD: la responsabilità dei ritardi non è mia, i saggi sia alla convenzione per le riforme. Ventiquattro Mattino, la politica nel tunnel. Buongiorno, buongiorno ancora da Gianfranco Fabi per questa ultima parte di 24 Mattino. Come annunciato, oggi parliamo del nuovo Papa, parliamo di religione, parliamo dei cattolici, parliamo di politica, ovviamente, dell'impegno dei cattolici in politica e di questa politica talmente confusa in questa fase che forse ha bisogno di qualche supplemento di valori in più, e in questo senso ne parleremo con Don Antonio Sciortino. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a voi. Don Antonio Sciortino è direttore di Famiglia Cristiana e ha appena pubblicato un libro, un'intervista curata da Giovanni Valentini, giornalista di Repubblica, La morale, la fede e la ragione, un dialogo sulla nuova Chiesa di Papa Francesco. E buongiorno a padre Antonio Spadaro. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Padre Antonio Spadaro è direttore della Civiltà Cattolica, un mensile dei gesuiti che è considerato un organo semiufficiale del Vaticano. È una rivista che ha avuto anche un certo rinnovamento negli ultimi giorni sotto la direzione di padre Spadaro. Ne parleremo tra poco, ma iniziamo con Don Sciortino. Don Sciortino, La morale, la fede e la ragione, un libro edito da Imprimato con una prefazione di Eugenio Scalfari. Eugenio Scalfari non è certo è una persona che guarda con attenzione alla Chiesa, ma non è certo una persona che sia all'interno della Chiesa un credente, anzi ha professato spesso il proprio scetticismo verso la fede. Come mai questa professione di Scalfari e questa intervista di Giovanni Valentini, che è anch'esso un giornalista di Repubblica? Ma io credo che oggi noi dobbiamo dialogare un po' di più in questo paese che ha creato dei muri contro muri, invece noi dovremmo creare dei ponti. Io ho accettato un po' la sfida di sottopormi a questa lunga e pressante intervista con Valentini. Abbiamo toccato tantissimi temi che spaziano appunto dalla morale, all'economia, alla politica, il rapporto alla Chiesa. E mi ha fatto piacere che anche Eugenio Scalfari abbia accettato, ha letto tutto il libro, perché la prefazione che ha fatto era precisa, puntuale, e sottolinea appunto questa apertura della Chiesa nei confronti del mondo. Noi siamo a 50 anni dal Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II si era aperto al mondo, aveva fatto una riflessione ad intra rispetto alla sua organizzazione, ma si era soprattutto aperto al mondo. Noi dobbiamo dialogare molto di più in questo paese, laici e cattolici, se l'obiettivo è quello di avere di vista il bene comune. Tutti possiamo concorrere al di là della diversità di opinioni e di pareri, perché le differenze restano comunque, però ci sono tanti temi sui quali cattolici e laici possono e devono incontrarsi, come quello del rispetto della dignità delle persone, l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, un'economia e una politica che abbiano come base un'etica di fondo, che pensino al bene comune e non semplicemente a interesse. Il paese oggi è paralizzato dal punto, certo, di vista politico, come accennavi tu prima, e forse una buona e forte iniezione di etica nella politica, nell'economia, darebbe un po' più di speranza a questo paese. Ecco, il dialogo necessario, il dialogo, sottolinea appunto Eugenio Scalfari, quel giornale, quel direttore, cioè Famiglia Cristiana e Don Sciortino, rappresentano ai miei occhi, scrive Scalfari, una chiesa e una comunità con la quale il dialogo è possibile e fruttuoso. Resta da vedere però, sottolinea ancora Scalfari, fino a che punto la gerarchia accoglie il tipo di cattolici che Don Sciortino e Famiglia Cristiana rappresentano. Di questo parleremo indubbiamente tra poco, ma volevo chiedere un attimo anche a padre Spadaro, che è di Civiltà Cattolica. Anche Civiltà Cattolica si pone come interprete della realtà della fede, ecco, ha una diffusione certamente diversa da quella di Famiglia Cristiana, però questo cambiamento lo sta vivendo, questa volontà di dialogo e di apertura, di confronto con il mondo, padre Spadaro? Ma sì, l'ha sempre vissuto sin dalla sua fondazione, la rivista più antica d'Italia che mai ha interrotto le pubblicazioni, quindi sin dal 1850, una rivista pre-italiana, quindi possiamo dire, ha sempre creato questi ponti tra la Chiesa e il mondo. In fondo la definizione di cattolicesimo che veniva dato nel primo editoriale è quella di della capacità di comporsi con ogni forma di cosa pubblica, è una definizione che mi ha molto colpito, quindi il cattolicesimo della civiltà cattolica sin dall'inizio si esprimeva in questa capacità di comporsi con ogni forma di cosa pubblica, e quindi abbiamo pensato, proprio guardando questa esperienza delle origini, di avviare un rinnovamento che evidentemente è anche grafico, stilistico, ma in realtà si tratta di un cambiamento di tipo culturale, approdando anche sui tablet e mettendo a disposizione gratuitamente, grazie anche all'impegno di Google, tutto il nostro archivio dal 1850 fino al 2008, scaricabile in maniera appunto assolutamente libera e gratuita. Ma questo, il senso di questa operazione è rendere pubblico un materiale molto caldo, devo dire, espresso in un linguaggio spesso assolutamente militante, caratterizzato da luci e ombre, evidentemente, come a mettere a disposizione di tutti la storia di questo dialogo tra la Chiesa e il mondo, così come noi l'abbiamo vissuto. Grazie Padre Spadaro, vi ricordo per i vostri messaggi 349-238-6666 e l'800-24-0024 per le vostre telefonate. Quindi un'apertura della Chiesa, Don Shortino, un'apertura anche, diciamo così, favorita da questo nuovo Papa, un Papa arrivato un po' a sorpresa, come scrivi nelle prime pagine di questa intervista, un Papa che ha catalizzato un po' l'attenzione, ecco, però forse un'attenzione dovuta al momento, dovuta appunto alla sorpresa, alla novità, il fatto di un Papa che viene dall'America Latina, ecco, un'attenzione che possiamo considerare un po' epidermica oppure che ha dei contenuti, risponde a una realtà, un'esigenza? No, non è assolutamente un fatto epidermico, non è semplicemente un fatto che risponde alla curiosità o all'attesa di avere un nuovo Papa in un momento particolare della Chiesa. Questo io l'ho definito davvero un dono dello spirito che ha spiazzato tutti noi giornalisti che facevamo il Toto Papa. A dire il vero, noi come giornali abbiamo evitato questo gioco, però c'era nell'opinione pubblica l'attesa dell'uno o dell'altro. Beh, siamo stati tutti spiazzati. Questo dice davvero come la Chiesa ha saputo, in un momento storico così difficile e anche in un momento in cui la Chiesa era messa all'angolo, trovare davvero un colpo d'ala. E non è un fatto episodico epidermico, perché non è semplicemente la curiosità che spinge la gente. Questo Papa, così umile, così semplice, ha fatto in pochi giorni una grandissima rivoluzione. Quindi nel momento in cui la Chiesa sembrava messa all'angolo e l'opinione pubblica se ne interessava semplicemente per le sporcizie all'interno delle Chiese, per le divisioni, le lotte, i problemi legati alla Banca Vaticana, allo IOR, ecco, tutto questo è stato spazzato via dalla presenza di un Papa che ha riportato la Chiesa allo spirito conciliare. Un Papa vicino alla gente, un Papa che non si atteggia all'essere vicino ai poveri, un Papa che ha vissuto sempre nella sua vita da cardinale, da prete, una vicinanza ai poveri, che rilancia la Chiesa nel nome del Vangelo. La cosa più importante è quello di annunciare oggi il Vangelo agli uomini d'oggi, ed è il suo compito principale, prima ancora delle riforme della curia o di altri problemi. Il vero problema è che oggi La cultura è un po' indifferente al messaggio. Questo Papa, come si dice, ha bucato il video, ma certo, ha bucato l'attenzione, ha bucato questo muro di ostilità che c'è nei confronti dei valori del Vangelo. Quindi è qualcosa di più profondo di una semplice emozione. Ecco, però è il terzo Papa non italiano. Sono 35 anni, dal 1978, che la Chiesa sceglie dei Papi non italiani. Questo è anche un po'... non diciamo un atto di accusa, però una critica verso la Chiesa italiana che non riesce più a esprimere una realtà e un'autorità come quella, guardi, del Papa. La Chiesa per sua natura è cattolica, quindi universale, quindi non è una Chiesa Italia centrica o a maggior ragione eurocentrico. Teniamo conto che la Chiesa stessa non è più eurocentrica, perché anche numericamente i fedeli sono ormai nel nuovo continente. Non è un male aver allargato questo orizzonte. La Chiesa non è semplicemente il Vaticano e tutto ciò che lo circonda, è qualcosa di più ampio. E quindi già nel precedente conclave il Cardinale Bergoglio era stato candidato come possibile Papa. E forse non era, qualcuno ha detto, non era pronto a fare il Papa. Forse non era pronta la Chiesa ad accettare un Papa extracomunitario, un Papa che arriva dalla fine del mondo, come ha detto lui. E credo che questo rappresenti una vitalità nuova per la Chiesa, rappresenti un vigore, così come sono questi paesi vitali, molto più vitali. L'altro giorno abbiamo avuto un incontro con il cardinale Scola e ha detto l'Europa è stanca da tutti i punti di vista, e quindi una vitalità sia per la Chiesa, ma credo anche per la società civile, viene da queste nuove comunità molto più vitali di quanto lo siamo noi. 24 mattino. Bentornati a 24 mattino, stiamo parlando con Don Antonio Sciortino del suo libro La morale, la fede e la ragione, l'intervista con Giovanni Valentini, un libro appena uscito in libreria, un libro sulla nuova chiesa di Papa Francesco, e stiamo parlando anche con padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, a cui appunto volevo chiedere, parlavamo appunto con Don Sciortino nel precedente collegamento, sul nuovo Papa, se questo Papa Francesco rappresenta sicuramente una sorpresa, un grande interesse, ecco, ma secondo lei, padre Spadaro, sarà in grado non solo di interessare ma anche di convertire questo soprattutto guardando l'Italia in cui la secolarizzazione sta crescendo? Padre Spadaro. La categoria di fondo, direi, il suo approccio fondamentale alla realtà e agli altri è quello legato alla vicinanza. Io direi che la vicinanza, proprio la prossimità, è la categoria fondamentale del suo pensiero e della sua azione. E addirittura aveva dato tempo fa una definizione di umiltà, a mio avviso, splendida, cioè avvicinarsi bene agli altri. E penso che questa sia la categoria di riferimento, perché d'altra parte fa comprendere come la grande tentazione per la Chiesa, ma non solo per la Chiesa, anche per la società, è quello di essere autoreferenziali. Quindi direi che questa polarità tra la vicinanza e l'autoreferenzialità è la polarità che sarà dominante nel suo pontificato, cioè Papa Francesco vuole una Chiesa che esce da se stessa, uscire da sé, l'ha ripetuto varie volte durante i discorsi che abbiamo ascoltato in queste settimane. E allora questa dimensione di uscita, di stare per le strade, di incontrare le persone, direi quasi fisicamente, anzi non quasi, ma proprio fisicamente, quindi avere un approccio diretto legato non alla massa ma al singolo. Vediamo che quando il Papa attraversa in jeep Piazza San Pietro non guarda alla massa ma si sofferma sulle singole persone. Allora direi questo approccio è un approccio capace di convertire, perché è un approccio che cerca una comunicazione diretta, che quindi affronta il problema, che non salta la persona, ma in qualche modo la pone un ponte, no? Certo. Direttamente con la persona. Quindi questo, secondo me, questa sarà la forza del pontificato di Papa Francesco, al di là poi delle sue opinioni e sui singoli argomenti, cioè direi questo approccio che è radicalmente evangelico è capace di convertire. Quindi una Chiesa, Don Sciortino, che è anche capace di cambiare, di rispondere in maniera diversa alle esigenze del mondo, alle esigenze della società, ha un cambiamento molto forte che avviene nella società. Nel tuo libro c'è chiaramente espresso anche, per esempio, un'apertura verso il celibato dei preti, dice, non è un dogma, si può anche... Ma questi sono temi che si affronteranno, e credo che sia bene che anche all'interno della Chiesa si torni un po' a dibattere con quello spirito conciliare che aveva caratterizzato 50 anni fa questa Chiesa che si apriva al mondo. Quindi anche Martina aveva detto ci sono tanti problemi che sono rimasti sospesi, sui quali bisognerà... In questo il Papa ha dato anche una linea molto importante, che è quella di una maggiore collegialità. Finora non ha mai pronunciato la parola Papa, se non una volta, mi pare, in una forma indiretta, perché parlava appunto della figura. Lui si è presentato come Vescovo di Roma per essere davvero vicino alla sua Chiesa, ma anche per dare un segnale di questo primato nella carità, per cui io credo che su tanti temi la Chiesa dovrà tornare a dibattere e il Sinodo, come diceva il Cardinale Martini, potrà non essere più solo consultivo, potrà essere un raduno dei vescovi che in comunione col Papa affrontano determinati temi e arrivino a delle conclusioni, arrivino a delle decisioni. Quello che in questi ultimi tempi ha lasciato un po' così, un po' perplesso, è un aspetto un po' stagnante all'interno della Chiesa, e questo in qualche modo ha demotivato tanti. Questo Papa è stato ed è una ventata di ottimismo, è un colpo d'ala dello spirito che dà alla Chiesa, ma non solo alla Chiesa, speranza, ma anche alla società civile, perché uno stile sobrio, uno stile di vicinanza ai poveri, che non è un atteggiamento, perché questo è nel cuore del Vangelo. Ecco, io vorrei chiedere, saluto la professoressa Giovanna Rossi, buongiorno professoressa, buongiorno. Docente di sociologia all'Università Cattolica, particolarmente attenta ai temi della famiglia. Se questa, proprio guardando la società italiana, si può considerare questa attenzione verso Papa Francesco come una curiosità della novità, un'esigenza di recupero anche di religiosità? Dottoressa Rossi, brevemente. La rinuncia di Papa Benedetto XVI è stato un gesto inedito, un inedito per la storia, e anche l'annuncio quindi del suo successore, al di là di tutte le riduzioni mediatiche che ne sono state fatte, è un inedito. Papa Francesco è un inedito, dobbiamo ascoltarlo senza pregiudizi. Certo che l'attenzione rivolta a lui, questo nuovo inedito, non deve indurci nell'inganno di farlo coincidere totalmente con ciò che la grande stampa e l'opinione mediatica ci dice di lui, perché il sentire del popolo che abbiamo visto in questo periodo sempre più forte come condivisione del messaggio che Papa Francesco ci ha portato è un sentire di popolo che riempiva Piazza San Pietro anche per le udienze di Papa Benedetto XVI come oggi. Certo, forse fare questa una contrapposizione tra i due papi, c'è un'evoluzione, c'è una novità. C'è una novità, ma c'è una grande continuità. Ecco, valorizzare questa novità non è criticare quello vecchio, assolutamente. No, ma soprattutto sottolineo un aspetto che è stato marcato dal Cardinal Scola quando ha indicato che Papa Francesco ha ribadito il nucleo centrale della fede che con Gesù la morte è vinta in grande continuità con Benedetto XVI, e queste due figure enormi nella storia dell'Europa hanno in comune una grandissima virtù, l'umiltà. Certo, ecco, io vorrei sentire anche gli ascoltatori che stanno affollando il nostro centralino. Giorgio da Ragusa, buongiorno. Buongiorno, sì. Ci dica. Sì, senta, io volevo evidenziare due aspetti. Primo, che il Papa Francesco è di origine italiana e ha la mentalità piemontese. A parte questo qua, quindi, lo possiamo considerare anche un Papa italiano. E secondo, sul libro del Corriere della Sera che è il Papa Francesco, il nuovo Papa si racconta, a pagina 61, lui evidenzia il significato della parola. Pronto? Sì, ecco, dica, ci sentiamo. Dunque, il significato della parola autorità, lo leggo. La parola autorità deriva dal latino augere, che significa far crescere. Ecco, quindi avere autorità non vuol dire reprimere. Indubbiamente, far crescere e quindi rispondere anche a una libertà. C'è un ascoltatore che ci chiede se è giusto convertire, è giusto sicuramente offrire la libertà delle persone, delle proposte. Fare delle proposte vuol dire ampliare la libertà delle persone. Antonella da Brescia, buongiorno. Antonella da Brescia. Buongiorno. Ascolti, io volevo così dire il mio pensiero da cattolica praticante, sono contentissima ovviamente di come tanti di questo Papa. Però attenzione, io dico, lui ci porta comunque a cercare giustamente il dialogo, certamente tra laici e cattolici, premetto che comunque la Chiesa questo dialogo l'ha sempre cercato e sempre lo cercherà, però ciò che la politica invece purtroppo non fa e non sta facendo in un momento così difficile. Quindi io direi che questa come dire questo atteggiamento che la Chiesa sta dimostrando dovrebbe essere come dire, preso anche da certi nostri politici che comunque continuano a persistere in questo grande distacco tra destra e sinistra, tra una morale che deve essere assolutamente quella vincente, quella di sinistra, e l'altra no, o comunque tutto quello che sta in mezzo non va bene. E quindi io trovo che questo non vada bene per il paese, ma per le persone. Dov'è la ricerca del dialogo tra i nostri politici, tra i nostri comunque pensieri a livello proprio di impegno politico, ragionamenti sul vivere quotidiano, eccetera eccetera? Perché attenzione, anche questo Papa sui valori fondanti della Chiesa non sarà così morbido. Ecco, grazie mille Antonella. Io chiedere certamente su questi valori, una lista che c'è da tanti anni nel mondo laico, non so questo Papa come la potrà vivere, non in modo così morbido, attenzione. Lo vedremo, ma proprio sulla politica italiana, sull'impegno dei cattolici in politica, vorrei chiedere a Don Sciortino come rispondere. I cattolici non hanno avuto grande incidenza negli ultimi tempi. Beh, c'era stato con Todi una certa speranza che i cattolici tornassero ad essere significativi nella vita del paese. Todi 1, Todi 2 avevano aperto questa speranza. Però si sono persi per strada, per cui sarà per la vicinanza dell'elezione, per non aver avuto il tempo necessario per ricomporsi in un dialogo, perché per la prima volta con Todi erano tornati i vari movimenti, le varie appartenenti a movimenti, associazioni a dialogare. Sono tuttora, a mio parere, poco significativi nella vita del paese. Lo vediamo anche in queste ultime vicende, dove la presenza cattolica, politici cattolici, non hanno né risalto né incidenza. Bisogna tornare a una seria riflessione, perché c'è anche bisogno di un pensiero e di una maggiore etica nella politica. Vediamo oggi come la politica è contrapposta. Abbiamo dimenticato, ignorato il bene comune. Se avessimo di mira il bene comune, forse la soluzione, avremmo già un governo dopo 40 giorni da quando siamo andati a votare. Ma se ognuno pensa esclusivamente alla propria parte, al proprio interesse, non al bene dei cittadini, sarà difficile trovare una composizione, una soluzione per i problemi gravissimi di questo paese. Certo, non per avere un'egemonia, ma per aiutare. È un servizio, si diceva prima, l'autorità è servizio nella Chiesa, ma dovrebbe essere la stessa cosa anche per la società civile. 24 mattino. Bentornati a quest'ultima parte di 24 mattino. Stiamo parlando con Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, del suo ultimo libro, un libro intervista, La morale, la fede e la ragione, con padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica. Abbiamo un ascoltatore in linea, Umberto da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo chiedere a Don Sciortino, comunque complimenti per la bella trasmissione, volevo chiedere a Don Sciortino se l'atteggiamento di questo Papa, così dinamico, diciamo, rispetto ai precedenti, ma non per conto loro, può favorire una maggiore vocazione verso il sacerdozio, per esempio, nei giovani, perché questo dinamismo, questo rivolgersi, come diceva giustamente lei prima, Don Sciortino, al singolo, ecco, questo il giovane ne è colpito, io credo, e quindi le chiedevo questo, se ha già visto che c'è un aumento delle domande di sacerdozio, non so, o vocazioni oggi. Don Sciortino. Beh, guardi, è difficile dire se c'è una nascita di qualche vocazione sacerdotale, però quello che si può dire, l'abbiamo anche letto sui giornali, che tantissimi in questo periodo, anche non credenti, soprattutto non credenti, sono tornati in chiesa. Sono stati intervistati tanti parroci in questo periodo di Pasqua e hanno confessato che hanno avuto un maggior afflusso di penitenti, di persone che non mettevano piede in chiesa. Questo Papa, soprattutto con i gesti, oltre che con le parole, dà una grande testimonianza di una vicinanza di Dio agli uomini, di questo prendersi cura di tutte le persone. Per cui i giovani che oggi non ascoltano i maestri seguono i testimoni. Questo Papa è un grande, grandissimo testimone del Vangelo nella sua semplicità, nella sua povertà, nei suoi gesti. Per cui sono certo che tanti seguiranno questo testimone, perché oggi nessuno più vuole ascoltare insegnamenti, i maestri non sono facilmente accettabili, però i testimoni sono seguiti. Questo Papa è un grande testimone testimone. I giovani hanno bisogno di testimonianza. Questo Papa sta dando testimonianza dell'amore di Dio e della misericordia di Dio verso tutti. Ecco, quindi senza nessuna imposizione, senza nessuna, nessuna forzatura. Assolutamente, il Vangelo non si impone, si propone e poi liberamente ognuno lo accetta. Ecco, la libertà è un termine appunto che viene usato spesso. Tra l'altro, appunto, volevo citare un altro libro del cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, Non dimentichiamoci di Dio, libertà di fede, di culture e politiche, che verrà presentato settimana prossima a Milano, ma che è in questi giorni anch'esso in libreria. E vorrei chiedere alla professoressa Giovanna Rossi, docente di sociologia, ecco, parlare di libertà religiosa, insistere proprio sulla libertà religiosa, perché è importante in questa fase e perché è importante anche un libro come quello del cardinale Scola, Non dimentichiamoci di Dio. È importante perché le nostre società sono società sempre più plurali. Forse voi ricorderete, gli ascoltatori possono ricordare altri contributi al cardinale Scola sempre su questo tema. Le nostre società plurali sono società tendenzialmente conflittuali. Allora c'è una domanda fondamentale: come è possibile, come peraltro prima anche è stato ripreso a Don Sortino, fondare una vita comune che rispetti e valorizzi le diverse visioni del mondo che sono oggi in gioco? Cardinale Scola rilancia la questione della libertà religiosa come una cartina di tornasole del livello di civiltà di una società. In altri termini, il fatto di riconoscere di poter agire una libertà religiosa è un indicatore forte del livello di civiltà e ci dice se una società è una società in grado di generare una vita buona. Volevo sottolineare anche un aspetto particolarmente rilevante dal punto di vista sociologico e naturalmente questo appartiene alle riflessioni che io posso condurre su questo tema, che mettere in campo questo punto implica necessariamente sottolineare che la società civile in tutte le sue manifestazioni è una grande ricchezza. E faccio in questo senso riferimento a tutti i fenomeni associativi presenti nel nostro paese, ma presenti anche a livello europeo, che costituiscono l'humus della società. Allora, costruire una vita buona in cui queste libertà implica implica certamente una valorizzazione molto diversa rispetto a quanto oggi si fa nel nostro paese del grande contributo che la società civile può offrire al cammino. Ecco, grazie professoressa Rossi. Io stiamo arrivando molto rapidamente alla conclusione. C'è una domanda, io drasticamente la farei a Don Sortino. C'è un ascoltatore che ci dice: questa chiesa non ha nulla da insegnarci, pensi a risolvere i suoi problemi e soprattutto i problemi dei preti pedofili. Don Sortino. Ma guarda, io dico questo, l'ho anche scritto nel libro, che se anche la società civile usasse lo stesso criterio che ha usato la Chiesa per combattere la pedofilia, credo che ne guadagneremmo tutti, perché non dimentichiamo che il Papa nei confronti della pedofilia del clero ha usato tolleranza zero. Forse non c'è la stessa tolleranza zero in altri contesti, perché non dimentichiamo che la pedofilia del clero è lo 0,0 di tutto il fenomeno, che è un fenomeno aberrante. Per cui la Chiesa si propone, non impone assolutamente, testimonia il Vangelo, testimonia l'amore di Dio per gli uomini e gli uomini sono liberi di accettarlo o meno. Grazie Don Sortino. Padre Spadaro, in conclusione una rapidissima sintesi di quello che abbiamo detto. Alcuni ascoltatori ci chiedono: ma questo Papa gesuita cosa vuol dire che sia un Papa gesuita? Intanto per noi è stata una grande emozione, un grande stupore, quindi abbiamo impiegato del tempo a metabolizzare questa notizia, la prima volta nella storia ovviamente che c'è un Papa gesuita, e poi abbiamo cominciato anche come gesuiti a riflettere sul significato di questa scelta. I gesuiti sono nati per servire il Papa, e quindi avere un Papa gesuita per noi è una cosa molto strana, ma il senso fondamentale è questo. Quando Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, ha creato questo legame così forte col pontefice, lo ha fatto perché lui guarda la Chiesa da una posizione più universale, quindi sa quali sono i luoghi in cui c'è bisogno e ci manda lì. Nel momento in cui uno di noi diventa Papa, allora questo diventa il servizio più universale possibile alla Chiesa, ma questa categoria di universalità è un'altra categoria molto importante, cioè il gesuita guarda al mondo stando attento alle frontiere, diciamo alle trincee, possiamo dire, come ci disse anche Paolo VI, e ha una visione globale, quindi il mondo non è più diviso in nazioni e continenti, ma è una realtà unica e a cui bisogna guardare stando attenti appunto alle esigenze fondamentali, ai luoghi che fanno appello alla nostra azione. E in cui al centro c'è la persona, ed è la persona in fondo il centro di tutto, il centro delle nostre attenzioni. Devo concludere qui, ringrazio io padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, che è stato con noi, ringrazio don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, ricordo il suo libro La Morale, la Fede e la Ragione, dialogo con Giovanni Valentini, ringrazio anche Peter Bescapè in regia, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Valentina Magri e Miriam Lucchetti in redazione. Grazie a tutti, l'appuntamento è per domani. 24 mattino.